Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Intanto l'estate è arrivata, questa è l'unica certezza che abbiamo ultimamente, anche se qui a Milano comincia a ingrigirsi, forse potrebbe venire qualche diluvio, ma insomma fa parte anche questo dell'estate, si può sopportare, ma non ci sono più le mezze stagioni, voi lo sapete, è il momento alla fine della settimana, il sabato, di raccogliere in modo rilassato i vostri pensieri e di decidere qual è la notizia che più vi ha colpito, quale vorreste commentare, quali sono le cose che avete discusso con i colleghi, con gli amici, con i parenti. Le notizie si succedono una dopo l'altra, inarrestabili tutte le settimane, ne ho moltissime in testa anch'io, poi come al solito vi farò proprio un brevissimo riassunto, però cominciate voi a concentrarvi, a radunare i vostri pensieri e a tenere presente il numero verde, sempre disponibile per voi, il numero verde quindi anche ecologico, come dice la parola stessa, 800 24 00 24, numero verde 800 24 00 24. Fra le notizie, intanto vedo subito dalla prima pagina online del Corriere, ma poi c'era anche sul Corriere Cartaceo, se non sbaglio, guardavo stamattina, questa notizia di Formigoni che è stato ufficialmente indagato, il presidente della Regione Lombardia. L'inchiesta sulla sanità lombarda in questo momento lo ha indagato per corruzione e finanziamento illecito, ma quello che mi sgomenta un po', se devo dire la verità in questo momento, è la risposta, almeno che c'è così in primo piano sul titolo del Corriere da parte di Formigoni: anche se vero non mi dimetto. Cioè, posso capire che uno dica secondo me non è falso e poi sarà da appurare, se si appurerà magari forse mi dimetto, ma non lo so, ma dice anche se è vero, come si fa a dire che anche se è vero non mi dimetto? E poi lo sai tu se è vero o non è vero, si dice anche se è vero perché spero viene comunque, senza giudicare a priori, mi sembra una risposta che non sta molto né in cielo né in terra, diciamo inopportuna per dire una cosa così lieve. Dopodiché invece, fra le altre notizie della settimana, naturalmente la crisi continua a attanagliare tutta l'Europa e non solo, anche gli Stati Uniti, è aumentata la disoccupazione e si continua con questo ping pong tra Europa e Stati Uniti, è colpa vostra, non è colpa sua, e poi anche all'interno dell'Europa è colpa della Grecia, no, ha detto ieri Monti, è colpa anche in fondo della Francia e della Germania, insomma colpe diffuse, l'importante è progressivamente uscirne. E quindi tutti questi vertici che ci sono a livello di Unione Europea e anche con gli Stati Uniti, ieri si è parlato, è il titolo di tutti i quotidiani, 130 miliardi il pacchetto che si sta approntando per aiutare l'Europa. Poi c'è stata l'altra grande notizia per quanto riguarda l'Italia, la politica italiana, l'autorizzazione da parte del Parlamento a procedere, il Senato, nei confronti del senatore Lusi, ex tesoriere della Margherita, che sapete è accusato di aver saccheggiato le casse piene di finanziamenti pubblici dell'ex partito. Poi la Fiat, che è stata condannata dal Tribunale di Roma a Pomigliano a riassumere 145 operai perché li avrebbe discriminati, anche se Fiat dice già che annuncia ricorso. La benzina è una buona notizia, ve ne parlavo già settimana scorsa, no? Eni aveva subito lanciato questi super sconti nel fine settimana per la benzina e continua a crescere ininterrottamente da mesi, adesso sta improvvisamente scendendo e già sabato scorso, quando era il primo fine settimana di sconti di Eni, Assopetroli, l'associazione dei produttori di petrolio, era subito intervenuta chiamando in causa l'antitrust dicendo qui si compromette la concorrenza, come proprio quando qualcuno comincia a abbassare i prezzi si compromette la concorrenza, il mondo è un po' alla rovescia, tant'è vero che da lì un po' tutti stanno, i distributori stanno diminuendo la benzina, quindi è cominciata questa gara virtuosa all'abbassamento del prezzo della benzina. E poi che altro raccontarvi? Comincia qualche taglio, diciamo, la politica forse pochino si rende conto di questa ondata anche qui inarrestabile di antipolitica, non so se basterà questo, tagli alla Camera. Saranno decurtati, ridotti i deputati da 630 a 508, prima si parlava di dimezzamento, evidentemente gli è sembrato un po' troppo, cominciamo a fare qualche passo. E leggevo anche sempre sul Corriere Online che c'è anche un piano che dimezza le province e per esempio in Toscana l'unica sicura che sarà sicuramente provincia è Firenze, beh ci mancherebbe altro che non fosse Firenze. Anche questo incidente diplomatico del Dalai Lama, no? Il leader spirituale tibetano che a Milano e doveva ricevere la cittadinanza onoraria. Invece, siccome la Cina ha fatto pressioni, pare, sul comune di Milano, su Pisapia, dove ci sarà l'Expo 2015, minacciando di non presentarsi nel 2015, pare che questa onorificenza piano piano sia stata ritirata e gli diano un qualche altro tipo di omaggio, che mi sembra una cosa, insomma, poco lusinghiera. Comunque, 800 24 00 24, prima di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi, vi dirò, come sempre, qual è la notizia che ci dice in questi giorni che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sapete la lupa quella a Roma, no? Con Romolo e Remo sotto che li allatta. In realtà è più giovane di 17 secoli. Uno dice, che notizia, cioè, effettivamente no, la lupa sarà contenta di avere parecchi secoli in meno, ha un'aria un po' più giovane, però pare che non sia effettivamente etrusca, ma venga dal Medioevo. Hanno fatto questo esame con radio carbonio, mi chiedo, in tutti questi secoli, questo esame, è vero che radio carbonio non è da moltissimi anni che si utilizza, ma un po' di decenni sì. Ora l'hanno scoperto, insomma, che ha 17 secoli di meno, che sarebbe una scultura medievale e non etrusca, e qualcuno si è un po' accontentato, confortato, dicendo forse l'originale etrusco da qualche altra parte. Va bene, comunque, questo ci conferma che le cose a volte non sono come sembrano, come abbiamo pensato fino adesso. Ma è il momento, a questo punto, senza perdere altro tempo, di presentarvi, signore e signori, l'opinionista estemporaneo di oggi. Paolo Fresu. Buongiorno. Paolo, io mi aspettavo una trombettina, qualcosa, due note di jazz. No, perché praticamente avevo un concerto, sono appena ritornato a casa, insomma, mi dovevo preparare perlomeno, e quindi, insomma, spero che la mia voce possa essere sufficiente. Quella della tromba è un po' la mia, e viceversa. Per quello, insomma, che mi aspettavo. Rappresento anche lo strumento. Ma si tengono concerti anche di mattina? Di solito è una cosa che si pensa tra pomeriggio e sera. No, ne avevo uno ieri sera. Ieri sera. Spero, naturalmente, di riraggiungere casa e di essere con voi con veramente molto, molta felicità e molto piacere. Grazie, reciproco, Paolo. Tra l'altro, pensa che fra gli ascoltatori che sono intervenuti anche sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, c'era uno entusiasta. Adesso vorrei riandare a trovare il nome, non so se ce la faccio con questa nuova configurazione di Facebook, non ci capisco mai niente. Neanche tu, perché Zuckerberg, l'inventore, che ha mangiato? Cosa ha sognato la notte? Perché ha fatto questa trasformazione inutile e dannosa, diciamo, secondo te, della Facebook? Ma non lo so, ed è in effetti una bella domanda, non lo so neanche io. Certo è che, insomma, il mondo dell'informazione, quello dello scrivere, è cambiato. Per esempio, io ieri ero a Forlimpopoli per fare un concerto, presentavo il mio libro e facevo tutta una serie di dediche. Ho dovuto poi, come dire, non solo fare le dediche, quindi spendere del tempo con molta felicità, molto piacere, certo. ma poi soprattutto spendere dell'altro tempo a tutte le persone che uscivano dal posto e poi leggevano la dedica e ritornavano dentro in rigoroso ordine e dicevano: ma cosa ha scritto? Quindi, insomma, penso che sia una bella domanda. Perché effettivamente è curioso pensare che dedica può scrivere un jazzista di fama internazionale come Paolo Fresu, ma anche che cosa potrebbe raccontare a proposito delle notizie della settimana. Sapete che ogni tanto mi vengono queste curiosità perniciose, no? Un po' così, sì, un po' perverse. Di solito io ho giornalisti, editorialisti, uomini, donne, però a volte mi piace proprio avere un personaggio fuori da tutto e dire: ma che penserà delle cose? Poi tu puoi dire quello che vuoi. Una, sì, ho aperto prima il sito di Repubblica, sì, e c'è questa notizia, secondo me bellissima, perché in questo momento così complicato credo che anche un po' di poesia e anche di ci manca così, tanto, sì, sia importante. Ho letto questa cosa su un video di una balena che spruzzava un arcobaleno. Io questa cosa l'ho trovata assolutamente bellissima, straordinaria, per cui, insomma, ben venga la poesia anche in questa quotidianità odierna in cui le difficoltà sono, come dire, immense, lo sappiamo bene. Allora, che questa sia, magari anche insieme alla musica, all'arte, come dire, un modo diverso per prendere anche la vita difficile, le bollette, le difficoltà, con quell'emozione che sicuramente anche l'arte sa dare, senza togliere il fatto che comunque possa anche permettere di riflettere sui veri problemi della quotidianità, insomma non è da poco, penso. Certo, quindi dall'arte ci viene un conforto, ma anche dagli animali, quando non viene dagli esseri umani. Certo. Una balena che spruzza l'arcobaleno, un'immagine bellissima, io già immagino un film, un libro, qualcosa su questa balena. Tra poco, Paolo, abbiamo già ascoltatrici, ascoltatori, per esempio Gisella da Milano, sempre al numero verde, ecco, l'ho ritrovato Mariano nella confusione della configurazione della pagina Facebook. Mariano che diceva che è contento, fra gli altri, che ci sia Paolo Fresu qui e Non ci sono più le mezze stagioni. Vorrebbe che tu, di fronte a tutta questa crisi, a queste robe, a questo gossip, a queste cronache nere, eccetera, tu cantassi, anzi suonassi l'inno d'Europa. Però poi ha messo un filmatino con l'inno di Mameli che tu hai suonato con la tromba. Sì. Che passò a Ballarò l'anno scorso, naturalmente, come dire, creando un putiferio, perché io feci l'inno di Mameli, dissi, ma insomma posso fare l'inno di Mameli come, perché poi insomma, posso farlo a mio modo, e credo che questo sia il vero modo di vedere l'Italia di oggi. L'Italia è un paese lungo, un paese largo, un paese apparentemente diviso, in cui si parlano mille lingue, si mangia in mille modi. Io trovo che questo sia un pregio straordinario della nostra Italia, intendiamoci. Se in politica questo può essere a volte apparentemente drammatico, penso che nel resto, nel modo di vedere l'Italia, nell'arte, eccetera, eccetera, sia bellissimo, e il nostro paese è ricchissimo proprio per questo. Per cui reinterpretare l'inno di Mameli, che peraltro inizia con quella nota che non si sa se imbattere o in levare, e questo è molto interessante, fa sì che ognuno possa, come dire, cantare o suonare l'inno di Mameli, e quindi questo significa che ognuno può interpretare e vedere, certo, la nostra Italia in un modo diverso. Io ne feci una versione con l'elettronica, con la tromba sola, e mi ricordo che nel Facebook non venne messo su YouTube naturalmente immediatamente, come tutte le cose di oggi, ci fu uno scatenamento proprio di persone che dicevano è bellissimo, e altri dicevano fa veramente schifo. È bello questo dell'interpretazione artistica, perché l'inno di Mameli secondo me rappresenta una Italia effettivamente ricca e anche piena di punti di vista completamente diversi. Dunque ben venga una democrazia condivisa e anche divisa, se questo fa sì che, come dire, arricchisca in qualche modo il dialogo. Ecco, basta che sia un dialogo pacifico, costruttivo. Tra l'altro, a proposito di emozioni, vorrei far sentire giusto qualche nota a Carmelo Lauricella, giusto? Sì. Non è l'inno di Mameli, ma questo è Fresu, giusto per darvi l'idea di questo grande jazzista conosciuto in tutto il mondo. E Paolo, a proposito di emozioni, Berlusconi in questi giorni è tornato a parlare e dice che vuole di nuovo essere leader del centrodestra, poi dopo mi dirai cosa ne pensi, ma quello che ha detto è che il nome lo vuole cambiare del partito. PDL dice non emoziona. Te ti emoziona, non ti emoziona? Come lo emozioneresti? Che nome daresti per creare emozioni? Anche con la tromba, io penso che l'emozione, il modo di creare emozione sia un qualcosa che si ha o non si ha, cioè non va deciso a tavolino, non ci sono delle strategie, non possiamo usare tutti questi termini di oggi che io conosco in parte, che fanno parte del mercato, che fanno parte delle strategie economiche. Io penso che ci sono delle persone che nascono con la capacità di trasferire le emozioni, che siano quelle di un politico. Berlusconi è uno di questi? Sinceramente non credo, ma insomma questo è un punto di vista personale. È un punto di vista personale, perché al di là di tutto, insomma, ci sono delle persone che riescono poi a mettere d'accordo il mondo al di là delle posizioni politiche nel momento in cui toccano dentro, e credo che il dentro non abbia un colore. E quindi ci sono delle persone che sono in grado di farlo, altre che non riescono. Tipo Obama, ti viene in mente un Obama, anche se adesso non si sa le sue fortune? Ma diciamo che la differenza rispetto a Berlusconi è che Obama, nel momento in cui è diventato presidente degli Stati Uniti, ma anche prima, in qualche modo ha toccato dentro me stesso, per esempio, forse non solamente perché era un artista, forse perché il jazz comunque è storicamente, come dire, afroamericano, no? E quindi forse ero anche un po' di parte, sinceramente è un po' sì. Però diciamo che Obama è stato uno che sia nella campagna elettorale che poi nel momento in cui è diventato presidente, come dire, mi ha profondamente emozionato. Non so se questo derivi appunto dal fatto che sia legato comunque a quel mondo, la ragione di natura culturale, artistica, eccetera, oppure perché effettivamente, come dire, è un personaggio che, indipendentemente da tutto dal successo, dal successo di questo momento preciso degli Stati Uniti, quello economico, eccetera, eccetera, comunque abbia la capacità di toccare dentro. Vedremo come andrà a finire comunque con le elezioni di novembre. Tra poco parleremo anche del libro che ha appena scritto Paolo Fresu. Saremo con Gisella della provincia di Milano all'800240024 con le altre ascoltatrici e ascoltatori. Poi vorrei chiedervi una domanda, per esempio, che si fa Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso, nel suo editoriale. Dopo Monti chi vedreste come presidente del Consiglio? Parleremo di questo, parleremo di Renzi, parleremo di Lusi, di molte altre cose. Tra poco. Non ci sono più le mezze stagioni. Eccoci sempre insieme, Roberta Giordano con voi fino alle 15 per commentare con voi, con noi, con l'opinionista estemporaneo di oggi, le notizie della settimana. Opinionista che è il grande jazzista di fama internazionale Paolo Fresu, sardo, come si dice dal cognome, che ha scritto anche un bel libro che si intitola In Sardegna, un viaggio musicale. L'anno scorso ha compiuto 50 anni, nel 2011, non so se dici l'anno scorso ha compiuto 50 anni per non dire che quest'anno ne è 51, come fanno a volte le donne, ma anche gli uomini, devo dire. Comunque un viaggio molto bello, la scoperta della Sardegna attraverso una grande festa che ha fatto attraverso 50 concerti, e tra poco ne parleremo. Però da tempo che Gisella attende al numero verde 800240024, quindi a te la parola, Gisella. Grazie. Prego. Io un intervento, spero brevissimo, perché non mi sento sicuramente all'altezza di discutere con voi, di parlare molto. Non so perché oggi mi ha preso proprio così di botto, di cottova. Vi ascolto sempre, sabato quest'ora. Hai fatto benissimo, Gisele. Però questa notizia mi ha talmente... Ma forse poi è stato proprio un mio gesto istintivo. Non dovevo neanche forse stupirmi così tanto, perché ha fatto altre volte cose. Che è successo? Ci tieni sulla tipo. Corda? No, ma mi riferisco a Renzi. E ieri sera, diciamo, su Telenova, mi pare, mm-hmm. stavano dibattendo proprio il fatto che Berlusconi e Renzi sia il 26%, roba del genere. Dico, ma l'altra sera era 8:30, la Ligli Gruber, stava ancora a sinistra, questo qua è sindaco di Firenze, vuole andare avanti a fare il sindaco, però si candida anche per le prossime elezioni. Per le primarie del PD. Tutte le primarie. Sì. Il giorno dopo viene fuori, ma ha lasciato... Come dire, ma non di tu, Gisella, uno si aspetta questo di sgomento che ti ha creato, ti fa essere un po' confusa, nel senso adesso ripeto un po' le cose. Lo stupore totale a dire. Sì, ma diciamo agli altri che cos'è che ti ha stupita. Diciamo agli altri cos'è che ti ha stupita, Gisella. Il fatto che è uscito sull'Espresso, un documento che doveva essere segreto, in esclusiva, comunque, in cui c'è un piano, secondo l'Espresso, del PDL di Berlusconi per rilanciare il PDL, qualunque sarà il suo nome, candidando Renzi. Allora Renzi si trova improvvisamente candidato da una parte e dall'altra. Però lui smentisce. E quindi cos'è che ti stupisce? Il fatto che abbiano deciso loro, il fatto che Renzi potrebbe essere... Non lo so, chiedevo come, perché voi siete più informati di me. Io l'ho sentita ieri sera, poi questa notizia l'avevo quasi accantonata. Quando è incominciato, diciamo, la sigla della trasmissione, tutto, ho detto, eccola qua, bene, buona. Interveniamo immediatamente, Gisella, mi fa molto piacere. Sentiamo cosa ne pensano anche gli altri. Gisella, cosa ne pensiamo? Sentiamo poi anche le ascoltatrici e gli ascoltatori cosa ne pensano. Ti ringrazio di questa impulsività che ti ha portato a chiamare. Grazie Gisella, un buon fine settimana. Anche se dovesse piovere qua a Milano. E vorrei leggere molto brevemente sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni gli interventi delle facebookiane e facebookiani proprio su questo argomento, su Renzi, su questa ipotesi che lui appunto smentisce, ha detto anzi che schifo. E Monica scrive assolutamente sì, dice, io chiedevo lo vedreste Renzi come leader del centrodestra, lei dice assolutamente sì, è questione di mesi, scrive Monica. La domanda da farsi piuttosto: ce lo vedresti Renzi come leader del centrosinistra? Che può essere una domanda anche questa, effettivamente. Massimo scrive: l'Espresso e la Fonte, credo che ci troviamo di fronte all'ennesima bufala di un giornalismo, parola grossa dice lui, manovrato e funzionale a una lotta di potere tendente a screditare un concorrente troppo indipendente e pericoloso come Renzi. Quindi lui ritiene che sia un concorrente pericoloso, almeno questa dovrebbe essere l'ideologia nei confronti di Bersani. Marcello scrive: io ce lo vedrei assolutamente sì Renzi come leader del centrodestra, io sono di centrodestra e voterei Renzi, ma Renzi lo vorrebbe il mio voto? Beh, credo, sì, insomma, Poi Giulio scrive, sì, io penso che potrebbe essere il leader del centrodestra la dimostrazione che la sinistra ha le fette di mortadella sugli occhi e non sa valutare le nuove forze. Mariano scrive, dice, alla follia non c'è nessun limite, Berlusconi il nuovo Basaglia, sapete Basaglia, psichiatra che eliminò la legge sui manicomi. E poi Dora scrive, aiuto, molto così sintetica ma emblematica, eloquente, Mariano dice, in ogni caso una buona strategia per annullare un potenziale terribile avversario, il fatto di attribuire a Renzi questa possibile collocazione. Tu che ne pensi, Paolo Fresu, pur essendo jazzista, ti occupi delle cose del mondo naturalmente? Beh, innanzitutto aiuto, nel senso che veramente sono in seria difficoltà a sentire, no, apparentemente non a sentire tutti i pareri così diversi, ma ad apprendere. Sto anche in questo momento, c'ho un paio di giornali proprio davanti che trattano. Sentivo che scartocciavi, sì. A me dal punto di vista, da un certo punto di vista, non quello necessariamente di artista, ma quello di italiano che poi vota, mi piacerebbe molto pensare a dei partiti coesi che siano in grado veramente di portare avanti un discorso che puramente, come dire, di politica legata al sociale, legata all'economia, cioè dei partiti che abbiano veramente un pensiero che sia in grado di dire noi vogliamo fare questo perché crediamo in questo. E allora, come dire, credo che l'unico modo per raggiungere dei risultati veri sia effettivamente quello di pensarla tutti allo stesso modo. Ecco, invece mi sembra, scusa Paolo, che sia il PDL che il PD siano molto divisi. Tra l'altro oggi, sempre sulle prime pagine, c'è Renzi che dice, convoca amministratori e sindaci a Firenze, lancia la sfida e dice D'Alema, Veltroni e Bindi, basta. Sì, voglio continuare a rottamare. Ma io non dimentico che quando nacque il PD, che peraltro io fui anche, come dire, una sorta di testimonial per la Sardegna, naturalmente non entravo assolutamente in politica, anche se alcuni mi scrivevano ma no, non devi farlo, poi la politica è una cosa brutta, no? Questa parola, dico Dio, chissà se è vero. Di per sé non sarebbe. Che per la Sardegna, già prima che nascesse il PD, ci fu una lotta intestina a chi dovesse essere il candidato come presidente responsabile, diciamo così. Quindi insomma, di certo penso che queste cose non fanno bene poi ad un partito. Sarebbe molto meglio avere un partito coeso, con delle idee condivise, eccetera, eccetera, che sia in grado veramente di pensare agli obiettivi, raggiungere dei risultati e così creare un futuro e portare avanti un'Italia che sicuramente avrebbe bisogno anche di questo. Ecco. Poi c'è Adriana da Roma, Domenico dalla provincia di Cuneo, Clemente da Prato, ma brevemente, Paolo Fresu, visto che tu suoni magnificamente ma hai anche deciso di scrivere, dicevo, questo libro che è un po' un viaggio intorno alla Sardegna, intorno a questa tua festa eccezionale dei 50 anni, con anche tanti personaggi famosi, no, che ti hanno accompagnato. Sì, sì. Ma è una specie di guida anche. Ieri abbiamo presentato il libro Forni Popoli per la prima volta. Pubblicato da Feltrinelli. A un certo punto è arrivata una domanda alquanto spiazzante ma molto interessante di una persona del pubblico, che evidentemente aveva già preso il libro, aveva già letto. Mi ha detto, ma questo è un libro politico? Dice, perché tu nel libro non parli solamente di musica, non parli solamente di luoghi, ma parli di politica. Cosa significa per te la politica? Hai detto, ma se è un libro politico, a me fa molto piacere, nel senso che io nel libro parlo di una Sardegna diversa, parlo di una Sardegna bellissima, positiva, ma parlo anche di una Sardegna che non mi piace, di luoghi che non mi piacciono, di tutte le difficoltà che molti conoscono della Sardegna di oggi, che sono veramente le difficoltà dell'Italia di oggi, la disoccupazione in particolare, secondo me sono delle problematiche molto precise. Dunque, se parlare senza necessariamente denunciare, ma comunque raccontare le difficoltà della Sardegna di oggi, dei luoghi difficili, le storie delle persone che noi abbiamo potuto vivere attraverso questi 50 giorni, se questo significa fare politica, ben venga, nel senso che credo che la politica non sia solamente quella che si fa sui banchi del Parlamento, ma la politica sia il modo di ognuno di noi in qualche modo di dare un contributo a una società cercando di fare il meglio possibile. Questo non devono farlo solamente gli artisti, né tantomeno gli artisti conosciuti, anche se hanno ovviamente una responsabilità in più, ma dovrebbero farlo tutti, gli artisti sconosciuti, gli artisti conosciuti, quelli che fanno i barbieri, che fanno gli artisti di tram, che lavorano in uno

non ci sono più le mezze stagioni. Riprendiamo allora i nostri discorsi. Roberta Giordano sempre con voi, opinionista estemporaneo di oggi, un grande jazzista come Paolo Fresu, che ha appena pubblicato un libro, In Sardegna, un viaggio musicale. Un libro che è una specie di racconto dei suoi straordinari 50 concerti per il suo 50esimo compleanno, ma anche un modo di scoprire la Sardegna così un po' controcorrente, fuori dai soliti stereotipi. Ci sono sempre le vostre telefonate all'800 24 00 24, per esempio Domenico dalla provincia di Cuneo. Che dici, Domenico? Molto, ciao Roberta. Ciao Domenico. Sei straordinaria, ti seguo sempre. Ecco, sì, per me è una notizia più eclatante, che non so se mi faccia più ridere o piangere, sì. Quella che Berlusconi vuole ritornare. Perché poi se hai sentito anche Prodi, hai sentito quello e si è fatto sentire anche lui dicendo che lui tifava per la Grecia, con quella sua voce che sembra arrivare dall'oltretromba. Prodi, come l'avvocato che manovrava tutto, prima di sposo poi di rovino con Cluri e Caterina Jones, che era laggiù, là tutto attaccato ai fili, eccetera, però voleva ancora manovrare. Non so se te lo ricordi. Sì, adesso qualche diciamo ricordo filmico. Ecco, se il futuro è questo, accidenti, siamo ben messi. Quindi Domenico dice stiano a casa loro, insomma è ora di cambiare aria. Veramente, hanno già dato. Tu no? sei un elettore di Grillo nel caso? No, io sono moderato, sono diciamo orientato verso sinistra, però cioè ci vuole un po' di rinnovamento. Non possiamo procedere come i gamberi, ti pare. Renzi ti piace? Ma guarda, in tutta questa faccenda hanno detto l'idea è stata lanciata da quel collaboratore di Sgarbi, no? Che ha detto che lui i desideri diventano realtà, come se il mio desiderio di fare l'amore con Monica Bellucci diventasse poi realtà. Ma ecco. Chissà mai, Domenico, cioè, forse disperarci. Tutti hanno detto di tutto, non hanno chiesto a lui, però all'unico interessato. Mi pare che la prima cosa non sia chiedere all'interessato se vuole o no. Non sarebbe male, effettivamente. Giusto? Senti, Domenico, io ti ringrazio. Se ti dovesse capitare un incontro avvicinato con Bellucci, facci sapere, aggiornaci qui a Non ci sono più mezze stagioni. Va bene, grazie. Ciao. Domenico. E invece, Paolo Fresu, ti volevo dire, io ho lanciato ormai a febbraio con qui presente, anzi al telefono, l'ex ministro Giovanardi, questo scandalo sui baci tra donne, sui baci gay, eccetera, che poi è diventato un tormentone, ha riaperto il dibattito sull'omosessualità in Italia, è diventato un tormentone di alcune trasmissioni. Però oggi si ripresenta una notizia in prima pagina. A Roma oggi ci sarà un grande corteo pacifico, no? Sempre per i diritti civili e quindi i diritti gay, eccetera. E pare che i cattolici di Milizia Christi hanno affisso un po' lungo tutta la città il percorso di questo corteo un'immagine di Giovanni Paolo II con la critica pronunciata nel 2000, amarezza per l'affronto recato, che non so se si riferisse a questa cosa, insomma. Quindi un po' per boicottare, un po' per di nuovo ribadire che certi diritti sono cose scandalose che non devono neanche essere pronunciati, difesi, eccetera. Che ne pensi tu della questione? Ma io penso che i diritti non siano scandalosi, i diritti sono semplicemente diritti, cioè nel senso che ognuno ha diritto alla propria vita, alle proprie scelte, alla propria sessualità, a quello in cui crede, purché naturalmente questo non vada a ledere, come dire, i diritti del prossimo. Credo che questo sia il primo concetto di libertà fondamentale, quindi non riesco a comprendere perché ci sono delle persone che vanno a sindacare sulle scelte del prossimo, qualsiasi queste siano. Penso che molti dei problemi di oggi, anche quelli del fatto che alcune volte non ci si sopporta tra di noi, tra vicini e da lontani, derivino proprio da questa incapacità non solamente di accettare il prossimo, ma soprattutto di comprenderlo. Ecco, se non c'è comprensione, probabilmente insomma continueremo a guardarci perlomeno in cagnesco, se poi questo non porta a problemi molto più seri. Io credo realmente che ognuno abbia il diritto di fare le proprie scelte e di vivere la propria vita come crede, come crede. Che sia la sessualità, che sia la religione, che sia tutto quello in cui ognuno crede. Come dire, siamo tutti diversi e penso che questa diversità sia la nostra vera ricchezza, quindi va, non direi accettata, perché accettata significherebbe apparentemente, certo, come un dire, mascheramento in realtà della non accettazione, a fare uno sforzo. Siccome non dovremmo fare nessuno sforzo, dovremmo semplicemente prendere coscienza del fatto che siamo tutti in qualche modo diversi e che questa diversità è la vera ricchezza di questo momento e sarà probabilmente il futuro della nostra società. Siamo d'accordo. Tra l'altro continuano ad arrivare telefonate al numero verde con la nostra Miriam Lucchetti, che prende centinaia e centinaia di telefonate, tra poco Stefano da Roma. Però volevo dare una buona notizia: se anche non ci sono ancora leggi sulle unioni civili in Italia, anche se ci sono dei registri eccetera eccetera, una buona notizia è che almeno nell'aldilà chi è stato coppia di fatto potrà essere unito, diciamo, nella tomba. Ecco, questa è una buona notizia che viene da Cassago Brianza in Lombardia, dove è stato varato un regolamento che appunto consente anche alle coppie di fatto di essere tumulate nella stessa tomba, quindi meglio tardi che mai, per dire qualcuno, se volesse una buona notizia, è questa. Da vivi no, da morti sì. Poi Stefano da Roma, all'800 24 00 24. Sì, ciao Roberta. Ciao Stefano. Saluta a te e anche a Paolo Fresu, da un fan della mia data, sempre bravissimi. E a me la notizia della settimana, che ha fatto davvero cadere le braccia, sono state le dichiarazioni di Lusi. E dopo essere stato diciamo arrestato, dopo che è stata concessa l'autorizzazione, sì, diciamo che un po' di faccia di bronzo ce l'ha avuto, diciamo, adesso poi ci penserà la giustizia e tutto quanto, però il discorso effettivamente è un po', no? No, sì, ma la cosa assurda è che dopo aver criticato i giudici, gridato alla persecuzione e richiesto poi di non essere arrestato, ovviamente la dichiarazione che ha fatto andando poi verso il carcere è stato: sì, va bene, ma io vado pure in carcere, però ho tante cose ancora da dire che non ho detto ai giudici. Infatti, scusami Stefano, e adesso le dirò, come a dire che se non lo arrestavano sarebbe stato zitto, se invece, visto che l'hanno arrestato, allora parlerà. Quindi con questo meccanismo si dà ragione ai giudici che hanno richiesto l'arresto, anche se è una misura estrema, perché evidentemente è l'unica maniera in cui questi personaggi poi dicono tutta la verità. Infatti Stefano, diciamo che resta ancora un attimo, al di là di essere d'accordo o non d'accordo con l'autorizzazione all'arresto eccetera eccetera, lui comunque è reo confesso, e vedo un'agenzia proprio di adesso, di pochi istanti fa, che dice: Lusi, difensori dicono pronto a raccontare la sua verità. Uno si chiede perché non fosse pronto parecchi mesi fa, quando è venuta fuori la questione, no? Adesso cosa fa? Minaccia un po' quelli intorno a lui, da Rutelli agli altri, che poi si vedrà, insomma, sono implicati, sono implicati eccetera eccetera, però effettivamente un comportamento, ecco, che lascia un po' così il tempo che trova. Stefano, poi effettivamente uno dice: arrestano le persone o vogliono autorizzazione a procedere proprio per spingerli, costringerli, come diceva anche Papa, che è appena uscito, un altro parlamentare, dal carcere, dagli arresti domiciliari, per spingerli a confessare. Però come dici tu, è bastata questa cosa perché lui allora promettesse, no, tuoni e fulmini nei confronti di altri. Comunque, insomma, vedremo come prosegue questa vicenda. Grazie Stefano. E Luciana da Trento invece? Luciana. Buongiorno. Buongiorno Luciana. Sì, io volevo richiamare un po' il tema delle unioni di fatto e dei matrimoni, no? Gay, sì, eventualmente. Ecco, ad esempio, faccio un esempio, io sono favorevole alle unioni di fatto ma non al matrimonio per i gay, per il semplice motivo che dietro la parola, ad esempio, matrimonio, c'è una storia, un immaginario che è stato approfondito negli anni da studi anche psicologici, ad esempio, che definiscono il ruolo dell'uomo, della donna, del padre, della madre, eccetera, gli influssi sul bambino. Beh, adesso speriamo che i ruoli saltino un po', quelli che sono stati ratificati, sì, tanto tempo fa. Andrebbe rispettato il nome, nel senso che matrimonio, ecco, attribuito e deriva evidentemente da madre, no? Ecco, e quindi ha un motivo storico. Quindi tra, ecco, due donne potrebbe andare bene se deriva da madre. Ma sì, sommato. Però dopo cosa succede? Che comunque all'interno si va a definire, no, un ruolo del padre, della madre, ecco, sembra un po' un scimmiottamento e è quasi una costrizione della coppia gay ad assumere ruoli madre e padre. Allora, io credo che la resistenza da parte delle persone ad accettare anche l'idea del matrimonio gay sia dovuta a questa confusione dell'immagine collettivo, immaginario collettivo, che però ha delle radici molto profonde. Senti, Luciana, scusami, ti chiedo questa cosa: potrebbe, visto che anche le lesbiche e i gay crescono come bambini, come ragazzi, come ragazze nel mondo generale, nella collettività, nell'immaginario collettivo, non possono introiettare anche loro questa simbologia e questo desiderio, quindi, di essere partecipi di una cosa così importante a livello simbolico, come dici tu, del matrimonio, e farne parte e non sentirsi esclusi? Poi chi lo sceglie, chi non lo sceglierà, non lo sceglierà. No, è detto, è vero, che ma allora bisognerebbe trovare un altro nome. Per esempio? Lancia lì. L'esempio non lo so, ma sicuramente non matrimonio. perché richiama un'idea femminile a questo punto. Tra donne va bene, allora abbiamo detto sei femminile, Luciana. Quindi magari lo consentiamo alle donne, ma non agli uomini. Intendo dire che comunque ci sono delle implicazioni psicologiche profonde che non si possono cancellare in questo momento, capito? Che andrebbero un attimo studiate. Mi è chiaro il tuo concetto. Luciana, ti ringrazio molto. Grazie, adesso mi dice Carmelo Luciana, la parte tecnica, che dobbiamo aggiornare giustamente chi viaggia. Sono a milioni che ci ascoltano mentre viaggiano. 800 24 00 24, sempre per le vostre telefonate, sempre con Paolo Fresu. Non ci sono più le mezze stagioni. E restiamo assieme ancora per un po' con Paolo Fresu, jazzista, grande jazzista di fama internazionale, che ha scritto anche un bel libro che ho qua con me, si intitola In Sardegna, un viaggio musicale, la sua terra poi amatissima e vista anche in modo critico per certi versi, amaro, ma anche con molta gioia e molto amore. E sempre al numero verde, poi le altre ascoltatrici, 800 24 00 24, gli altri ascoltatori, ma abbiamo anche un appuntamento che non potiamo proprio saltare. E quello con Don Severino da Potenza, che ogni tanto ci sciocca con i suoi... che ci racconti questa volta, Don Severino, delle notizie che ti hanno colpito? Ciao, buonasera. Avevo pensato una cosa dell'argomento che avete trattato, però ne dico un'altra. Non so se avete saputo dell'imminente viaggio di domani del Papa nelle terre terremotate. Ecco, io dico semplicemente questo: forse la gente non sa che il 29 è la giornata della carità del Papa. Probabilmente, dato che l'immagine attuale, diciamo, della Chiesa è un po' carente, ecco, questa visita nelle terre terremotate, che poteva farla benissimo quando è andata a Milano, ma probabilmente che porterà un po' più di soldi, perché la gente, capito, vede il Papa che va dai terremotati, dice poverino, guarda com'è buono, e le offerte saranno migliori. Ve lo farò sapere se in parrocchio succede questo. Vabbè, grazie Don Severino, aggiornaci. Ciao. E adesso invece vi aggiorno su un'agenzia di questi istanti, perché fosse appassionato, ma insomma le notizie ve le do di qualsiasi tipo. Formula 1, Ferrari fuori dalla top 10, Alonso è arrivato undicesimo. Sei appassionato di Formula 1 tu per caso, Paolo Fresu? Non molto, ma ho una passione indiretta, perché un caro amico, come dire, in questo momento sta disegnando le nuove Ferrari a Maranello, per cui ho molti amici che invece sono appassionatissimi. Qualche tromba non te la disegna nel caso? No, tu sai già, sei tu l'esperto. Ma non lo so, stavo pensando di provare a chiedere con questi nuovi materiali incredibili, vero? Eccetera eccetera, quindi magari non è improbabile che insomma una tromba senza le ruote evidentemente si possa fare. Che magari vada a casa da sola, poi quando non ti serve. E c'è Carlo. Beh, questa è un'ottima idea. Vero che potrebbe essere un'idea. Carlo da Firenze, sì. Scusami Carlo, ti chiedo di essere sintetico perché sia quando sono sinteticissimo. Grazie Carlo. Niente, io sono un pochino perplesso sulle proposte che vengono fatte per le unioni di persone simili, maschi simili o femmine. Sì, molto simili. Mi pare innanzitutto che sia una questione contro natura e di conseguenza già questo mi disturba. Ti disturba. Perché parlare di matrimonio tra due uomini e due donne è onestamente lo ritengo quasi scandaloso. Deprecabile, detto diciamo. Questo, sì. Se proprio si vuole che due persone stiano insieme ufficialmente e facciano un contratto, no? Che c'è bisogno di chiamarlo matrimonio per dissacrare quella forma di famiglia che è sempre esistita e che rispetta la natura delle persone? Grazie Carlo, grazie, sei stato chiarissimo. Adesso però devo correre verso il prossimo appuntamento con la nostra Valeria Dalla Valle, linguista della Sapienza di Roma. Ciao Valeria, alla quale chiedo un termine che è stato usato questa settimana dal presidente di Confindustria per definire la riforma del lavoro, poi dopo ha moderato un pochino, diciamo, sì vabbè, ma non mi ha convinto di tutto, ha detto è una boiata. Etimologicamente che diresti di boiata? Bene, allora la storia della parola, tutti quelli che sentono questa parola in genere la ricollegano alla parola boia, no? E quindi pensano che venga da boia, e quindi boiata, un comportamento da boia. Invece il boia, il torturatore, il carnefice, non c'entra niente. La parola boia in realtà può risalire, si è scoperto, o a una parola settentrionale antica che significava boiada significava pappolata dal verbo boi, bollire, ah. E nei dialetti di Piacenza e di Parma è passata ancora anticamente a indicare quindi una cosa da poco, una cosa spregevole che non vale niente, una vera pappolata. E qualcun altro invece, qualcun altro studioso, l'ha fatta venire dal milanese boiada, che significa abbaiamento, latrato. Beh, insomma, che significhi pappolata o che significhi latrato, boiato è una parola che sta benissimo in bocca a Fantozzi, no? La famosa boiata, è una boiata pazzesca di Fantozzi. Ecco, lì va benissimo, e anche quando scherziamo e chiacchieriamo tra di noi. Altrove, beh, basta, mi fermo qui. Arrivederci. Grazie Valeria Della Valle. Arrivederci, ciao. E quindi anche sulla boiata abbiamo parlato di tante cose, veramente, anche questa puntata. Abbiamo pochissimi minuti ancora e abbiamo parlato di Renzi, di Bersani, un po' volando di Grillo, di Berlusconi. Bossi, caro Paolo Fresu, ha detto: da presidente della Lega ho un accordo con Maroni, devo restarci intanto in modo che la Lega resista e ci sia, e nell'accordo c'è anche che rifarò rientrare alcuni espulsi. E è opportuno che Bossi rimanga così, diciamo, con questo ruolo così importante nella Lega dopo ciò che è avvenuto? Ma io fossi io, insomma, cambierei un po' tutto. Non mi ricordo chi era, un Domenico forse poco fa, che parlava di una rivoluzione nella politica, della necessità di avere volti nuovi, giovani, Domenico, persone sì, completamente diverse. Io sono convinto che probabilmente, insomma, un'Italia nuova significa soprattutto una politica nuova. Politica nuova significa fatta da persone nuove, quindi nuovi volti con altre idee, con una energia diversa. Probabilmente per come dicevamo prima, per riuscire ad emozionare un po' di più, l'Italia ha bisogno di questo. Senti, un suono politico della tua tromba, che suono avrebbe? Come potrebbe essere una melodia dedicata alla politica? Come potrebbe suonare? Ma non dire alla politica, tra un mese fa sono stato da Gerd Lerner il giorno prima del 1° maggio e lui ha detto: perché non suonate l'inno dei lavoratori, visto che ci avviciniamo a quella giornata? Ha detto: ma esiste un inno dei lavoratori? Io non lo conoscevo assolutamente. Ha detto: sì, vi procuro addirittura le partiture, eccetera. Io penso che, insomma, l'inno dei lavoratori potrebbe essere un bellissimo inno politico, ma di una politica diversa, per cui dopo Gad però viene a suonare qua. Non credo che esista un suono della politica, proprio perché la politica nella sua apparente democraticità dovrebbe rappresentare tutti. Però secondo me esistono degli inni, dei suoni, delle melodie che, al di là, ripeto, dell'essere di destra o di sinistra, dovrebbero essere da tutti condivise. Paolo, e mentre stiamo per chiudere, ricordo che potete riascoltare la puntata su radio24.it e sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Hai iniziato con poesia, parlando della balena che spruzzava l'arcobaleno. Ti chiedo: che suono avrebbe quello delle stelle? Perché degli scienziati su Nature, questa ricerca, dicono che è possibile ascoltare l'eco delle prime stelle. Mi piacerebbe sentirlo dalla tua tromba. Mi prometti che prima o poi lo farai, mentre stiamo per chiudere? Prima o poi lo farò. Io credo che abbia un suono quasi inesistente, perché alla fine, se ci pensiamo bene, il suono rappresenta un po' la vita, no? Cioè, dicono che quando c'è stato il grande Big Bang, e su questo, Paolo, mi stanno chiudendo, si sta aprendo la botola sotto la mia sedia. Io ti ringrazio infinitamente, le ascoltatrici e gli ascoltatori, e da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.